Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. In questi giorni si è svolta a Londra una riunione ristretta a cui hanno partecipato vari esperti dell'Unione Europea che si sono confrontati sul tema delle Smart City, il cui sviluppo, vi ricordo, è considerato dall'Unione Europea una delle priorità strategiche. Unione Europea che ha messo sul piatto, infatti, anche molte risorse economiche, 12 miliardi solo sulla prima tranche. A Londra c'è Federico Pedrocchi che è in linea con noi. Ciao Federico. Ciao Maurizio. Allora, per iniziare la nostra chiacchierata, ecco, ci offre un buono spunto un estratto dell'intervento di Simon Gilles che tu hai raccolto. Simon Gilles è un esperto di Accenture, ma anche uno, diciamo, dei massimi esperti internazionali di Smart City, e che ci dà il là in questo modo. Sentite. What is a smart city? Che cos'è una smart city? Questo termine non ha per tutti lo stesso significato. Una cosa che ho imparato girando il mondo è che ogni città è diversa dalle altre. La prima osservazione a cui ci deve portare questo ragionamento è che la discussione oggi è troppo concentrata sulle tecnologie. Lo si è visto anche dalle presentazioni che sono state proiettate finora. Certo, è naturale che aziende come Accenture e Siemens, o IBM e General Electric ne parlino, perché facciamo tutti parte della comunità di coloro che vendono beni o servizi. Anche io amo molto la tecnologia e credo che sia importante, ma penso anche che sia l'aspetto più semplice delle smart city. In effetti, credo che gran parte della tecnologia necessaria esista già, mentre c'è un grosso problema di integrazione. Se analizziamo in modo sistematico la questione, vediamo subito dove sta il problema, e cioè che dobbiamo imparare a ragionare in termini di modelli di business e soprattutto di persone. Ecco perché oggi vorrei parlarvi di persone. Perché questo dobbiamo cominciare a fare se vogliamo rompere l'inerzia. Parlare di persone. Bisogna pensare alle persone, quindi, dice Simon Gilles. Federico. Sì, lui sottolinea questo aspetto perché dice che praticamente dal punto di vista tecnologico noi ormai abbiamo probabilmente addirittura un sovrappiù di strumenti. Le tecnologie non sono un problema, il problema è come usarle, il problema è quali progetti di trasformazione avere e come coinvolgere i cittadini e le cittadine dentro questo processo, perché certo una smart city senza cittadini e cittadine che sono protagonisti e dove diavolo può andare? Questa è la cosa che lui sottolinea. Attenzione, è una cosa che stanno sottolineando molti esperti, perché stanno partendo tanti progetti e si corre il rischio che siano un po' troppo appoggiati, come è avvenuto altre volte, sulle tecnologie. Sono appiattiti sulle tecnologie, e d'altra parte c'è stato un caso che ha fatto scuola e fu quello della UMTS. A un certo punto, esatto, vennero fuori questi bandi di gara, ci fu una corsa, vennero pagate anche delle cifre molto importanti per aggiudicarsi queste frequenze, poi per alcuni anni non girò nulla su queste frequenze, nulla, perché in realtà non si sapeva che cosa farci girare di interessante per gli utenti. La banda abilita, ma non è detto che sia sufficiente da sola a generare traffico, no? L'esistenza della tecnologia. Ecco, e questo dell'attenzione per l'utente finale è un tema che attraversa una serie di criticità che sono venute fuori da questa riunione ristretta. Una riguarda la valanga di dati che potrebbero essere prodotti dalle smart city del futuro. Certo. Anche qui cosa succede? Che abbiamo grandi strumenti, computer molto potenti, software molto sofisticati per maneggiare dati. Facciamo un esempio concreto che potrebbe essere molto importante per le smart city, la mobilità. Allora, per raccogliere dati da questa realtà possono essere attivati molte sorgenti, i vigili urbani, coloro che amministrano autostrade tangenziali, i taxi, quelli che, il radio taxi per esempio, gli autotrasportatori, tutti questi potrebbero contribuire a concentrare una grande quantità di dati. Ognuno ne raccoglie alcuni, per esempio, che lo riguardano più direttamente o ne produce. Li centralizza, no? li mette in un unico bidone. Benissimo, lì c'è probabilmente un grande patrimonio, però attenzione. Potrebbe essere, come sempre avviene, che da questi dati io tiro fuori tutto e il contrario di tutto. Se ho uno scopo, se ho un progetto, se ho un ragionamento, una finalità abbastanza precisa, allora so come ragionare su questi dati. La raccolta dei dati in sé non è vero che è una ricchezza, potrebbe essere anche un grandissimo disordine. E però, per esempio, queste esperienze di raccolta dati stanno già partendo. Ma forse anche la raccolta dei dati può essere fortemente influenzata dal tipo di uso che si intende farne, vero? Perché non è detto che... Fai bene a sottolineare questo aspetto, certo. A seconda di quello che voglio, io vado anche a cercarli i dati in un modo piuttosto che in un altro. Quindi insomma, se tutti partono a raccogliere dati con un'idea però abbastanza scarsa di che cosa si vuole fare, si rischia anche di buttare via denari, di fare progetti che non necessariamente sono utili. Rischio che si presenta per esempio ogni volta che si ripetono delle esperienze che magari qualche altra città ha già fatto. E qui viene fuori un'altra criticità che tu mi segnalavi, Federico. Sì, perché? Perché adesso per esempio abbiamo a livello europeo delle città che sono abbastanza avanti con alcuni progetti Smart City, per esempio Amsterdam forse è la più avanzata di tutti, ma anche qui a Londra si stanno facendo cose notevoli, ma anche in Italia abbiamo città che sono più avanti di altre nel fare esperienza. Allora è assolutamente cruciale in un progetto così affascinante e probabilmente che potrà dare grandi risultati, ma certamente complesso, è assolutamente essenziale che queste esperienze si confrontino in modo da evitare errori che hanno già fatto altri, in modo da ottimizzare dei suggerimenti, delle idee, non ripetere percorsi e anche risparmiare denari, perché gli strumenti sviluppati da una parte sono già stati sviluppati e quindi si possono più facilmente portare a casa, compensando magari comunque gli autori, ma costano molto meno che rifarli da zero, no? Insomma, c'è un grandissimo potenziale, un grandissimo potenziale. Ci sono fondi interessanti, come dicevi tu prima, 12 miliardi di euro solo la prima tranche, e utilizziamoli piuttosto bene. Insomma, queste sono le linee guida che escono da questo incontro. Grazie Federico Pedrocchi. Ciao Maurizio, grazie a voi. Per stasera ci fermiamo qui, l'appuntamento è per domani. Buona serata.